24. La storia. 20 settembre 1870. I bersaglieri entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia. Dopo secoli di divisioni e sudditanza, l'Italia è diventata una nazione unita e libera. Ma c'è qualcuno di cui non si parla e che forse avrebbe avuto diritto ad essere celebrato in questa occasione. Si tratta di una donna di mezza età, un'italiana nevrotica e introversa, che va ripetendo: «Io ho fatto l'Italia». Archivi della signora Contessa di Castiglione. Questo è uno dei miei grandi sogni, delle poche grandi ambizioni gloriose per la vita che mi restano, che ti dico per la prima volta, e vorrei che restasse come leggenda ai posteri da me scritta. Ricordatene, a tempo e luogo, per la sola grande cosa che ho fatto da me, l'Italia. Chi è questa donna? Lei è stata la bellezza trasformata in forza, trasformata in potere, trasformata addirittura in intelligenza. Una donna moderna, spigliata, spregiudicata, ambiziosa e pericolosa. E oggi parliamo proprio di lei, di Virginia Olduini, la Contessa di Castiglione, la donna più bella d'Europa. Una donna che vive in un mondo di uomini, ma sa usare fascino e seduzione, che ama il potere e il denaro, ma sa confessare al suo diario le sue moderne fragilità. È l'inverno del 1856, il conte Cavour fa a Virginia una proposta indecente. Deve sedurre l'imperatore di Francia e ottenere che il Piemonte sieda al tavolo della pace che segue la guerra di Crimea. La contessa ha solo 18 anni, ma sa muoversi nel mondo complesso della diplomazia. È intelligente, intrigante, seducente, spregiudicata. Accetta e in soli 2 mesi e pochi giorni porta a termine con successo la sua missione. Opportunismo, avidità oppure un insospettabile amore della patria, la contessa di Castiglione gioca la sua parte nel cambiare il destino dell'Italia. Poi esce di scena, morirà dimenticata, quasi fuori di senno, all'alba del nuovo secolo, il Novecento. Al conte di Cavour, suo cinico protettore, aveva confidato: «Ho appena cominciato a vivere e il mio compito è già finito». Quella che vi stiamo per raccontare oggi a Mix24 è la sua storia. 12 gennaio 1855. Virginia Olduini giunge a Torino da Firenze subito dopo le nozze con il conte Francesco Verasis di Castiglione, capo di gabinetto privato e primo scudiero del re. La fama della straordinaria bellezza della contessa l'ha preceduta. Alla corte sabauda tutti parlano di lei, tutti desiderano conoscerla. Il marito, che si dice innamoratissimo, ha speso una fortuna per restaurare sia il palazzo di Torino in via Lagrange che il castello di famiglia a Castiglione d'Asti. In questo castello Virginia darà alla luce l'unico figlio della coppia, Giorgio, destinato a morire giovanissimo e senza eredi. Ma non è passato un mese e il matrimonio è già in crisi, come la contessa annota freddamente nei suoi diari. 3 febbraio. Verasis mi ha fatto una scenata. 13 febbraio. Pranzato da sola nel mio boudoir, Verasis è venuto a dirmi che vuole separarsi. Poi è venuto con me a letto per fare la pace. 27 febbraio. Mi sono vestita con un abito bianco e oro per recarmi a corte, ma poi ho cambiato idea. In carrozza Francesco mi ha rimproverato e io me ne sono tornata a casa da sola. Virginia è abituata fin da piccola ad essere considerata la più bella di tutte. Il suo successo a corte è tale che il marito non tarda a mostrare segni di gelosia. In effetti, la contessa dà prova di una libertà di costumi sconcertante per l'epoca. A Torino riallaccia quasi subito una precedente relazione amorosa con Ambrogio Doria. A sua insaputa amoreggia contemporaneamente con i suoi 2 fratelli più giovani. Non tarderà a conquistare lo stesso sovrano, Vittorio Emanuele II, di cui è praticamente certo sia stata per anni l'amante. Servizio telegrafico di Sua Maestà. Signora Contessa Verasis, questa sera mi avete realmente abbagliato. Vi faccio di cuore i miei complimenti e vi auguro continuazione in eterno. Vittorio Emanuele. Ma in questo periodo non si parla solo di ricevimenti e di feste. Nel 1856 si chiude la guerra di Crimea con la vittoria dell'alleanza franco-anglo-turco-piemontese contro la Russia zarista. È in questo contesto che matura la missione segreta di Virginia, a raccontarlo lo storico Arrigo Petacco. Questa storia cominciò praticamente dopo la guerra di Crimea, 1856-57, e che il piccolo Piemonte, pur di entrare nel rango delle grandi potenze, nel concerto delle grandi potenze europee, come si diceva allora, mandò una piccola missione di guerra a combattere a fianco dei turchi, dei francesi e degli inglesi che erano in guerra con la Russia. Al ritorno da quella battaglia ci fu poi la pace, il congresso della pace avvenne a Parigi e Napoleone avrebbe voluto invitare a questo congresso della pace il piccolo Piemonte, ma le altre grandi potenze si opposero. A questo punto Cavour tanto fece, tanto manovrò, che riuscì a convincere Napoleone di appoggiare l'ingresso di questa piccola potenza che era il Piemonte, a sedere al tavolo dei grandi del momento, cioè Francia, Germania, Austria, soprattutto Russia, eccetera. E per ottenere questo scopo giunse anche a una, come si può dire, a un'operazione di alcova. Cavour era l'unico che si innamorò di lei, anche se era un donaiolo, benché molti pensano che sia un austero uomo da monumento. E fu lui che utilizzò la ragazza e la mandò a Parigi proprio con questa missione speciale, col compito di civettare con l'imperatore e, se possibile, sedurlo. Lei partì e ci riuscì. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, oggi stiamo raccontando la storia della Contessa di Castiglione, una giovane donna che gioca un ruolo di primo piano nella diplomazia internazionale durante le fasi decisive della costruzione del Regno Unitario. Ma perché Cavour sceglie proprio Virginia? Virginia Oldoini ha solo 18 anni, ma sembra già possedere molte caratteristiche che rispondono alle esigenze di Cavour. È unanimemente considerata la donna più bella d'Europa. È un'aristocratica e ha le entrature giuste alla corte di Francia. Parla perfettamente 5 lingue, ma soprattutto possiede un'attitudine innata ad essere una spia. Già dai suoi diari di adolescente emerge infatti una personalità contraddittoria che coltiva segreti ed è abituata a mentire anche a se stessa. Ce ne parla la scrittrice Daria Galateria e lo storico Arrigo Petacco. Lei è divertente soprattutto perché racconta con una certa spudoratezza la sua vita privata, per esempio, anche questo è straordinario. E non è comune per l'epoca, e usava delle cifre molto trasparenti, molto semplici per raccontare le sue disavventure. B voleva dire baci, BB voleva dire baci e qualcosa di più, F voleva dire completo. Io mi ricordo un particolare che un punto una volta sul diario racconta la visita di Vittorio Emanuele, che entra e ci si nasconde dietro una tenda, aspettando che tutti uscissero, poi siamo rimasti sul canapè seduti e poi punto. FFF sul tappeto, punto. Ed è forse proprio nell'intrico delle sue carte e dei suoi diari che si possono cercare le risposte ai molti enigmi sulla personalità della contessa e sul ruolo che può aver svolto per la causa dell'Unità d'Italia. Sentiamo ancora gli storici Galateria e Petacco. Lei scrive nel diario da Zeglio mi ha presentato il re, invece si dice mi ha presentato al re, ovviamente, ma l'io era un po' il suo problema in assoluto. È una donna che vuole imporsi, che vuole piacere, vuole esistere, e tutto questo è qualcosa che nell'Ottocento fa data. E naturalmente è anche un limite, nel senso che poi questo carattere un po' depressivo, lei piangeva quasi tutti i giorni e lo scrive, anche questo è straordinario. Lei ha delle depressioni durante il parto e dopo e lo racconta, anche questo è tutto molto straordinario. Decisamente io ho l'istinto dei gatti, cioè della libertà. Non mi piacciono le mezze misure, le mezze parole, le mezze fiducie, le mezze ignoranze e i mezzi amori. O tutto o niente. Lei entra a far parte dei servizi segreti dell'epoca. Era stipendiata. Costantino Nigra, che era l'ambasciatore a Parigi, l'uomo di fiducia di Cavour, che stava a Parigi, era quello che organizzò poi tutta l'alleanza con la Francia per la seconda guerra d'indipendenza, e aveva proprio un fondo nero per appagare tutti i capricci della signora, la quale quando arrivò a Parigi andò a vivere in una bellissima residenza in una rude Castiglione che sembrava fatta apposta per lei, perché c'era una Castiglione anche lei, spendevano enormità, soltanto le sue toilette erano famose, tutto pagato dallo Stato italiano per arrivare allo scopo della strage. Prima della partenza per Parigi, Virginia, o Nicchia, come è chiamata confidenzialmente anche da Costantino Nigra, viene istruita nell'uso di codici segreti per lo scambio di messaggi con la legazione piemontese e con lo stesso sovrano. Anche se molti documenti della contessa sono andati poi misteriosamente perduti, il suo cifrario personale si è salvato e contiene tutti i codici numerici dietro cui si nascondevano i protagonisti di questa storia. Misero padrone è il soprannome che Virginia dà al re nella loro corrispondenza privata. Ascoltiamo ancora Rigo Petacco e la costumista Nicoletta Ercole. A Parigi diventò la signora più mondana, più ammirata del momento. A quell'epoca andavano di moda i quadri viventi, queste cose ricostruite con lei come protagonista, e ne fece moltissimi di questi quadri, lanciando delle mode incredibili. Le donne di quel periodo, soprattutto poi diciamo in Francia, in Piemonte, insomma, avevano una cultura proprio legata alla moda, perché andare diciamo in pubblico, andare a incontri sociali della nobiltà, insomma, era sempre le donne che più erano appariscenti erano quelle che poi avevano l'attenzione di tutti, tanto è vero che è la chiave su cui ha giocato poi la Contessa di Castiglione. Una volta la Virginia andò a una festa a corte con un bellissimo vestito di rete che si vedeva, però sotto era praticamente nuda, con un cuore enorme sull'inguine, e lei entrò nella sala, si inchinò l'imperatrice. E l'imperatrice gli disse: un po' troppo in basso quel cuore, signor contessa. E lei gli rispose: il mio cuore batte dovunque. Il primo incontro con l'imperatore non sembra un grande successo. Ad un ricevimento in casa di Matilde Bonaparte, cugina di Luigi Napoleone, avviene la presentazione ufficiale. Virginia, a quanto si racconta, non trova nulla da rispondere a una frase cortese di sua maestà, tanto che lui commenta: bella, ma senza spirito. Nicchia non si scoraggia, avrà presto la sua rivincita, provocando la gelosia della moglie di Napoleone III, l'imperatrice Eugenia di Montijo. Sentiamo ancora Rigo Petacco. Solo una notte passò, a quanto mi risulta, con Napoleone, e di quella notte, che lei descrive con molti particolari, conservò questa camicia da notte che indossava, che non usò più, la tenne quasi come una reliquia, diceva che era una nuvola di seta verde. La conservò dentro una boccia di cristallo, ed era solita la Spezia, dove passò insomma gli ultimi anni della sua vita, farla vedere ai suoi ospiti dicendo: qui questa dovrebbe essere il tricolore, la bandiera d'Italia. Ovviamente si vantava, ovviamente millantava, aveva esagerato la sua partecipazione, però qualcosa di vero c'era. Ma qual è l'obiettivo di Cavour una volta che Nicchia sia riuscita a entrare nelle grazie dell'imperatore? L'esito della guerra di Crimea non è stato tale da consentirgli di avanzare richieste per il regno di Sardegna. Già essere presente al congresso di pace è un suo personale successo diplomatico. Ma Cavour vuole di più. Per lui è essenziale che il congresso di Parigi non si chiuda senza mettere all'ordine del giorno la questione italiana. I grandi d'Europa devono essere posti davanti al problema di una nazione divisa, oppressa, percorsa da pericolosi fermenti rivoluzionari. L'obiettivo viene raggiunto poco prima della fine dei lavori. È il primo passo di un'alleanza che porterà Napoleone III a combattere fianco a fianco con Vittorio Emanuele nella seconda guerra d'indipendenza, il primo passo verso l'unità d'Italia. Ma è stata Virginia a convincere Napoleone a inserire all'ultimo momento all'ordine del giorno la questione italiana? Rispondono gli storici Marina D'Amelia e Rigo Petacco. La contessa di Castiglione rappresentò sicuramente un elemento di considerazione sulle belle italiane, diffuse peraltro nella storia francese, ma non costituì assolutamente un elemento determinante. C'erano moltissimi elementi politici che lo spingevano a riferirsi alla questione italiana, sia per rimettere in discussione quello che era stato l'equilibrio conservatore deciso al Congresso di Vienna, sia soprattutto perché lui faceva appello al popolo e alle nazionalità. Gli storici l'hanno un po' presa in giro, ma gli storici dell'epoca, gli storici dell'Ottocento erano tutti maschi e maschilisti soprattutto, e quindi dalle donne si aspettavano soltanto che ricamassero coccarde o tricolori, ma non quando volevano, le donne più intelligenti volevano mettere il naso nelle cose politiche, immediatamente venivano considerate le impiccioni. Non apprezzata dagli storici dell'epoca, Virginia Oldoini non fu particolarmente amata nemmeno dalla sua città di adozione, Torino. E il perché ce lo spiega lo storico Gianni Oliva. Ma il fatto che la contessa di Castiglione non sia molto presente nell'immaginario collettivo dei torinesi credo nasca da un lato da una forma forse di misoginia congenita del tempo passato nelle nostre zone e dall'altro credo anche dalla preoccupazione di non limitare il ruolo che i Savoia, il gruppo dirigente piemontese, aveva avuto nell'Unità d'Italia con la valorizzazione di ruoli femminili che alluderebbero a aspetti molto meno politici e molto più da gossip degli accordi realizzati in quegli anni. Virginia è una grafomane e nelle sue carte ha raccontato tutta la sua vita. All'archivio di Stato di Torino sono conservate circa 20 cartelle di documenti appartenenti alla contessa, arrivati da lontano e per vie diverse. La maggior parte è stata acquistata nel corso di un'asta tenutasi nel 1951 a Parigi dopo la fortunosa scoperta di alcune casse appartenute appunto a Virginia. Sono le carte Castiglione. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, nelle carte della contessa di Castiglione. Un mondo di relazioni, di amori, di intrighi, un materiale prezioso per la diplomazia degli stati. Con la morte della contessa inizia l'avventura di queste carte. A raccontarlo Marco Carassi, direttore dell'Archivio di Stato di Torino. L'avventura di queste carte prende l'avvio nel 1899 a Parigi, quando la contessa di Castiglione muore. Considerati i trascorsi piuttosto piccanti del personaggio, immediatamente si precipitano nella sua casa di Rue de Cambon rappresentanti del governo italiano. Il conte Sforza viene incaricato di procedere alla distruzione dei documenti compromettenti che si supponeva la contessa conservasse presso di sé. In realtà molti documenti si salvano dall'incendio, in parte perché le stesse persone incaricate provvedono a prelevarne una parte, ma in parte anche perché la contessa, qualche anno prima di morire, durante uno dei suoi viaggi in Italia, mette in salvo quattro grandi casse di documenti che porta alla Spezia. Queste quattro casse di documenti vengono ereditate da parenti della contessa, i quali forse non si rendono ben conto di che cosa hanno in casa, e queste casse vengono riscoperte appunto nei primi anni 50 del Novecento. Alcuni anni fa, per una curiosa coincidenza, le carte Castiglione sono state raggiunte all'archivio di Torino da altri documenti molto importanti per la storia di quegli anni cruciali. Si tratta del fondo cibrario. Se fino a tempi relativamente recenti alcuni storici hanno cercato di negare il coinvolgimento di Cavour nelle vicende della contessa, il ritrovamento di alcune sue lettere, scritte da Parigi proprio durante il congresso di pace, non lascia adito a dubbi. Parigi, 21 febbraio 1856. Caro collega, Vi avverto che ho arruolato nelle file della diplomazia la bellissima contessa di Castiglione, invitandola a coquetter e, ove d'uopo, sedurre l'imperatore. Le ho promesso che, ove riesca, avrei richiesto per suo padre il posto di segretario a San Pietroburgo. Essa ha cominciato discretamente la sua parte al concerto delle Tuileries di ieri. Addio. Vostro affezionatissimo Camillo Cavour. Torino, 25 febbraio 1856. Caro Presidente, magnifico ritrovato è quello di adoperar le grazie nella diplomazia. È un momento supremo, conviene adoperar tutte le armi. Vostro affezionatissimo Cibrario. Gli storici non solo hanno ridimensionato, ma hanno spesso mal giudicato l'utilizzazione da parte di Cavour delle grazie della contessa di Castiglione. Lo hanno in qualche modo giudicato come un espediente degno di una corte di secondo piano che in qualche modo deve guadagnarsi un suo spazio tra i grandi paesi europei, un intrigo che poi ha avuto poca efficacia politica. Parigi, 16 marzo 1856. Sire, ho consegnato a Nini la lettera che Vostra Maestà le ha scritto. La mia affascinante cugina preme perché io ottenga da Vostra Maestà di poter dare a quell'imbecille di suo padre un posto al di sopra della portata dei suoi mezzi. Camillo Cavour. Dunque è vero, Cavour ha effettivamente incaricato Nicchia, Virginia Olduini, di sedurre l'imperatore dei francesi. La diplomazia sabauda ha avvallato l'incarico, il re sapeva. Sentiamo ancora lo storico Arrigo Petacco e la scrittrice Daria Galateria. Poi lei, che non era stupida, aveva anche avuto dei contatti con il famoso banchiere Rothschild, ricchissimo e grande speculatore. Quando ci scoppiò la seconda guerra di indipendenza, lei riusciva ad avere da un generale suo parente che combatteva l'esercito piemontese, riusciva ad avere addirittura delle notizie prima che del bollettino ufficiale. Non dimentichiamo che nell'Ottocento non c'era il telefono, non c'era la radio, non c'era il telegrafo, quindi queste cose le notizie andavano molto lentamente, e avere la notizia 6 ore prima del governo significava poter fare delle speculazioni in borsa colossali. E infatti, per esempio, quando i francesi vinsero a Magenta, il primo a saperla, la vittoria, a Parigi arrivò 6 o 7 ore dopo che Virginia era già stata informata e aveva informato Rothschild, il quale aveva già fatto la sua operazione in borsa, che si può immaginare con che guadagni. Ecco, lei aveva anche, quindi lei era allora molto astuta su questo punto di vista, non c'è che dire. Il suo rapporto col denaro è improntato a una caratteristica sventatezza, che se ne sia detto, e dai sovrani, da Vittorio Emanuele e poi da Napoleone III, si è fatta pagare veramente molto, un po' meno forse dal re italiano, ma da quello francese, all'imperatore di Francia, veramente moltissimo. La cugina ne parlava con disperazione, si strappava i capelli, diceva 40.000 franchi al mese, ho visto le ricevute che dava Baciocchi, questo ministro che si occupava del letto, diciamo così, del sovrano. Quello che si legge in filigrana attraverso tutta questa cattiva gestione del suo patrimonio di bellezza è il fatto che le interessava soprattutto il riscontro del proprio fascino. Era proprio un gioco di seduzione a cui teneva, e il denaro è quasi sempre, comunque molto spesso, proprio questo, una riprova del fascino. Nella multiforme personalità di Virginia, un aspetto interessante è quello che la spinge fin dal 1856 a stringere un sodalizio con il famoso fotografo parigino Pierre-Louis Pierson, che le scatterà nel corso della vita più di 400 fotografie. Sul suo stile sentiamo la costumista Nicoletta Ercole. Quello che mi divertiva pazzamente è andare a vedere tutte le toilette che lei si combinava e si faceva da sole per fare appunto i famosi scatti fotografici, tra cui appunto la principessa dell'Etruria. Ce n'era una fantastica, sembrava già una Teda Bara, cioè lei ha anticipato veramente anche delle immagini che per noi sono care perché ricordano il cinema muto, cioè c'era quella drammaticità proprio tipica poi di molti anni a venire. Si capisce che comunque lei ha realizzate staccando le tende, cioè un po' il concetto anche di Rossello Aran in Via col Vento, ecco, poi di fare di una toilette qualcosa di molto invece che appartiene poi alla casa, appunto al mobile, pur di creare questo personaggio così molto sopra le righe. Virginia Verasi sicuramente era una donna estremamente creativa, già una che si presta a farsi fotografare, alcune volte nuda, seminuda, vestitissima, interpretare Maria Antoinette, improvvisamente invece fare uno studio sui suoi piedi. Beh, trovo che sia una donna assolutamente creativa, cioè una Yoko Ono dell'Ottocento. In pubblico Virginia è l'incontrastata regina dei salotti parigini. Nell'intimità della camera da letto azzurra di Compiègne, dove Luigi Napoleone l'ha raggiunta la prima volta, è diventata addirittura imperatrice, sia pure, come annota nel suo diario, solo per mezz'ora. Fin qui pettegolezzi, ma ci sono risvolti politici? La principessa Metternich, moglie dell'ambasciatore Metternich, era ambasciatore austriaco a Parigi, quindi una grande potenza in un'altra grande potenza, scrive a Vienna al Ministero degli Esteri dicendo: signori, raddoppiamo la nostra legazione diplomatica a Torino, presso il Regno d'Italia, a Torino, non era ancora Regno d'Italia in quei momenti, perché il futuro d'Europa passerà da Torino. Credo però anche che le preoccupazioni della moglie dell'ambasciatore austriaco rientrassero nel clima dei salotti del tempo. Nel momento in cui la più grande potenza europea capisce che il futuro passa da Torino, perché c'è questa donna avvenente e straordinaria, vuol dire che il disegno di Cavour ha avuto successo. L'imperatore andava a trovare la contessa di Castiglione in Place Vendôme e Rue Castiglione, e si ritirava a alta notte, direi, al mattino, alle 3, alle 4 del mattino. Una mattina, all'uscita dell'imperatore, la carrozza lo aspetta, e solo i servizi segreti imperiali. Imperatore, c'è un attentato all'imperatore di un italiano. Quindi immediatamente l'apparato di corte dice: nessuno poteva sapere che l'imperatore era lì, usciva dall'alcova della contessa, l'unica che poteva saperlo era la contessa. Da allora gli apparati di sicurezza impediscono all'imperatore di passare le notti fino al mattino con la contessa, e quindi entrambi ne soffrono molto, soprattutto la contessa, ma man mano la relazione si allontana, l'imperatore si invaghisce di altre donne, la contessa cerca invano di ristabilire un legame, e poi si trova altre avventure, altri importanti compagni, e quindi la storia è finita un po' tragicamente, ma verosimilmente questo tranello era un tranello ordito dall'imperatrice Eugenia di Montijo. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Con la fine della relazione con l'imperatore francese Napoleone III, Nicchia torna a Torino. Ormai, separata dal marito, va a abitare da sola in una splendida villa delle colline torinese. Ma nella corte sabauda, che non l'ha mai amata, si sente fuori posto. Rimpiange amaramente Parigi e pensa solo a tornare. Con alti e bassi, Virginia prosegue per vari anni la sua relazione con Vittorio Emanuele. Forse svolge altri incarichi riservati per suo conto. Sicuramente fa ancora affari. Con la seconda guerra d'indipendenza, tutti i piani di Cavour e di Vittorio Emanuele II iniziano a dare forma a quella che sarà l'Italia unita. Ma non è Virginia a organizzare lo storico incontro segreto di Plombiers in Francia tra Cavour e Napoleone III, né a tenere i contatti successivi tra di loro. E quando alla fine riuscirà a tornare a Parigi, non avrà più un ruolo di primo piano. Ormai è fuori dal gioco. Non so che cosa augurare al misero padrone che possa fargli piacere, giacché Nicchia non ha il dono di fargliene. Mi contento di mandare al re i miei rispettosi saluti per l'anno 1970. Il 69 è stato cattivo, dal primo giorno fino all'ultimo, che finisco a Firenze. Comincerò il 70 alla Spezia e poi andrò dove il destino mi porterà. Se mi vuole, mi chiami. Sul retro di Pugno del Re. La voglio. Avete appena sentito una lettera che la contessa di Castiglione invia al re Vittorio Emanuele II nel 1870. A parlare del loro rapporto è lo storico Gianni Oliva e poi ancora Arrigo Petacco e Nicoletta Ercole. Vittorio Emanuele II è stato un grande amatore, come sono stati in genere tutti i principi, tutti i regnanti, ma cerca le sue avventure molto di più nelle campagne, nei balli a palchetto, nelle sagre paesane dove va travestito da cacciatore o da semplice ufficiale, di quanto non faccia all'interno dei salotti. Non credo che la contessa di Castiglione sarebbe mai stata il tipo di donna con il quale Vittorio Emanuele II poteva intrecciare una relazione duratura. Difatti la relazione duratura l'ha intrecciata con una popolana, Rosa Vercellana, e Vittorio Emanuele II diceva: mi trovo bene con la bella Rusin perché da lei si può desinare in maniche di camicia. La contessa di Castiglione non aveva l'apparenza di una che desinava in maniche di camicia, ma che era invece attentissima al protocollo e a tutto il gusto e lo stile che il protocollo aristocratico e mondano prevedeva. La giovinezza di questa donna fu brevissima. Lei a 35 anni non solo si sentiva vecchia, ma era vecchia. Fu umiliata da molti uomini che, appunto, non essendo più bella, immediatamente la disprezzavano. Tant'è che lei si rinchiuse in se stessa, in questa sua casa che aveva la Spezia, in quella che aveva a Parigi. Addirittura, se non è la leggenda, tolse gli specchi, coprì gli specchi con dei panni di velluto, non vuole farsi più vedere, diventò una maniaca, morì infatti molto presto, aveva 60 anni quando è morta. Morì malissimo, la sua vecchiaia deve essere stata terribile. Tu forse verrai, ma non stasera. Dormirò tranquilla. Io non pranzo con nessuno, né con me, nemmeno. Vomito invece di mangiare. E vomito veleno. Sono sola. Resterò sola. Stanca. Morta. Arrabbiata. È stata abbandonata, come spesso succede in politica, che si porta alle stelle, poi alle stalle, eccetera. E questo appunto è successo a lei, oppure era servita all'uso e per cui come un Kleenex gettato. In quel momento lì, quello mi piace di reazione femminile, di non lasciarsi veramente andare, ma di dire: ok, allora adesso come posso strabiliare ancora il mondo? Perlomeno se non lo strabilio, voglio strabiliare me stessa. E allora si è inventata questo rapporto meraviglioso con questo famoso fotografo che l'ha ripresa, e in qualche modo lei lì ha attraversato la sua fase artistica, perché io sono sicura che è stata lei la regia di tutto questo. E così Virginia continua a farsi fotografare da Pierson fino a poco prima della sua morte, che avverrà il 28 novembre del 1899, alle soglie del nuovo secolo, a Parigi, dove oggi riposa nel cimitero di Père Lachaise. Ce ne parla la storica Marina D'Amelia. Io credo l'interesse nei confronti dell'esistenza di un personaggio come la contessa di Castiglione non debba esaurirsi solo agli anni 56-58, che sono quelli più in qualche modo studiati. Se noi guardiamo infatti l'intera vicenda della contessa di Castiglione, scopriamo delle cose molto interessanti. La progressiva maturazione di una donna che non ha nessuna esperienza politica, l'ampliamento dei suoi interessi, i suoi viaggi, i contatti che ha con altre persone. Insomma, io credo che la seconda contessa di Castiglione, quella più matura, quella che ha dei giudizi più penetranti e più sfrestanti sugli ambienti e le persone, fino alla contessa di Castiglione vecchia e che definisce in modo altrettanto curato le sue disposizioni testamentarie di quanto ha fatto nel presentarsi a Parigi, sia interessante. Nessuna croce. Nessun prete, nessuna chiesa, nessun servizio divino, nessun fiore, nessuna veglia, nessun console, nessun ambasciatore, nessun sigillo, nessun erede, nessun necrologio, nessuna informazione, nessun giornale. La storia di questa donna stravagante, dalla vita così avventurosa legata all'alta società, con passaggi tra diverse città, La Spezia, Torino, Parigi, ha stimolato negli anni moltissima letteratura e cinema. Tra questi, la Rai le dedica 800, uno sceneggiato televisivo in 5 puntate. La contessa di Castiglione è interpretata da una giovanissima e bellissima Virna Lisi. Virna Lisi era molto ben scelta perché aveva gli occhi verdi, come la Castiglione, questa pelle trasparente e una bellezza veramente travolgente. È stato veramente il mito della bellezza ottocentesca e quindi di un certo tipo di femminilità. È troppo tardi per ricominciare a vivere quando si comincia a morire. Non una patria, non una famiglia, non un amore. Non un amico, né affetti, né salute, né denaro. Nulla più della bellezza che ora non c'è più. Mi è stato fatale. Gli storici non sono stati molto generosi con Virginia, con la contessa Virginia di Castiglione. E in compenso però direi che la popolazione, l'opinione pubblica ha avuto una grande ammirazione per questa donna che è entrata nell'immaginario popolare sia francese che italiano. Le dive moderne hanno questa dimensione che allora aveva la contessa di Castiglione, che ripeto è stata letta soprattutto in termini moralistici, la sua vita in termini di spia. Invece è una donna che ha valorizzato anche il ruolo della seduzione, il ruolo femminile. Ricordate voi che amate la storia. La mia è una curiosa ed accidentata storia di cose diversissime. Fatalità o provvidenza, non so. In questo gioco di vita e di morte non so più distinguere. Io non desidero che il silenzio e l'oblio.